96 San Lorenzo Roma, partiamo ufficialmente con la musica elettronica. Radio Onda Rossa ti invita all'ascolto di Altro Verso, dalle 23 alle 6 del mattino. Altro Verso, il meglio della musica elettronica. Di Altro Verso, benvenuti nel mondo dove si suona la musica elettronica densa di emozioni, carica così di pathos e di atmosfera. Questa è la prima selezione novità di questo sabato 11 giugno, firmata Annette Pari e Anita Cook, si chiama Sandy Rock, su etichetta Rotary Cocktail Records. La prima novità di questa settimana che vi abbiamo selezionato. E vi ricordo che questa prima ora la trascorreremo ascoltando le migliori selezioni musicali selezionate proprio da DJ Misk e Mischietta. Questa proviene dalla Fravon Records, sono Evans and Waterfall con Go to Town. Attraverso altri suoni, altra musica elettronica, sempre qui su Onda Rossa, sempre sul nostro sito www.altroverso.net. Ascoltiamo adesso Fravon, sempre ad altissimo volume, solo musica elettronica, e questi sono Evans and Waterfall. Beh, veramente un bel lavoro, una ottima traccia questa Go to Town per Evans and Waterfall su etichetta Frabon Records. Siete sempre all'ascolto di Altro Verso, solo la musica più innovativa, il sound del terzo millennio qui su Onda Rossa. Adesso arriva Hans Talau con Tal 007.1 su etichetta Tal Communication. Questa è praticamente la settima uscita per la label propria di Hans Talau. Tal Communications abbiamo ascoltato la settima release, esattamente la traccia 007.1 per Hans Talau, sempre qui all'ascolto di Altro Verso. Vi ricordo, andrà avanti fino alle 6 della mattina. Questa prima ora la dedichiamo all'ascolto delle selezioni novità, poi dalle ore 24 fino alle 5 della mattina le migliori tracce del momento, le ultime tracce insomma che girano in rotazione all'interno di Altro Verso. Poi dalle ore 5 alle 6 invece la zona chill out e la zona per rilassarsi ed ascoltare i suoni più ambient e più morbidi. Vi ricordo la playlist completa, la trovate nel nostro sito internet www.altroverso.net. Allo stesso sito vi ricordo anche che potete ascoltare la web radio online 24 ore su 24, sempre nel sito, sempre con Altro Verso. Adesso arriva Danilo Schneider con Sablier su Brucal. Che abbiamo ascoltato in questo istante, mi correggo, non è di Danilo Schneider ma bensì di João Maria, si chiama On, ed è estratta da Moving On, il suo nuovo 12 pollici per l'etichetta Alles Records. La prossima invece è Danilo Schneider, entra subito velocemente appunto Savlier su Brocade Records. Classe Danilo Schneider con questa Sablier su etichetta Brocade Records, è la quarta novità di questa settimana per Altro Verso. Adesso ascoltiamo Einstein Spy con Saved su etichetta Ellie the Cat. chiama Saved, la traccia prodotta da Hind Sounds Vibe per l'etichetta Ellie the Cat, che stiamo ancora ascoltando e che è la penultima novità di questa prima mezz'ora di Altro Verso. Vi ricordo solo la migliore elettronica underground indipendente, sempre qui in anteprima, ve la facciamo ascoltare prima insomma degli altri, prima che escano ufficialmente nel giro diciamo indipendente, nel giro comunque dei fanatici della musica elettronica del terzo millennio. Nulla a che vedere insomma con le cose banali, con le storie commerciali o con i suoni datati di 10 o 15 anni. Insomma, quest'altro verso è il futuro della musica elettronica. Adesso ascoltiamo Helge Cool con The Rainbow Snake nella versione remix di Florian Mendel per la label Paintwork. Florian Mendel ha veramente picchiato di brutto per questa sua versione remix della traccia originale di Helge Cool per la Paintwork Records, settima new release di Altro Verso. Sono le ore 23.30 in questo istante, adesso è il momento di fermarci proprio per un breve intermezzo e poi riprenderemo subito con la seconda parte novità di Altro Verso. Rimanete sempre qui, non mollate su Onda Rossa. Questa è la radio Onda Rossa, Altro Verso. Forse non tutti sanno che buoi e cavalli ascoltano Altro Verso, musica nuova per animali, fino all'ultimo respiro. La notte comincia con Altroverso. Por toda la noche, música electrónica sin interrupción. Eccomi, sono ritornato sempre qui a presentarvi le tracce che girano in rotazione all'interno di Altroverso, questa trasmissione ormai storica per quanto riguarda Radio Onda Rossa. Pensate un po', dal 1998 gira Altroverso da queste frequenze, lo fa in modo libero, indipendente, sempre con la passione verso la musica elettronica underground, indipendente e naturalmente sempre innovativa. Non siamo mai rimasti fermi, diciamo, ad un genere, ad uno stile, ma nel corso degli anni abbiamo sempre cercato di evolverci seguendo, insomma, le cose migliori che proprio l'underground riesce ad esprimere, fregandocene poi assolutamente dei trend commerciali o anche dei trend, magari, che so, finti alternative. Così fatemi essere un po' cattivo, insomma, un po' diciamo punzecchioso. Comunque diamo spazio alla musica. Vi ho subito sfumato la traccia precedente, era Deep Child con We Can Go Back sulla label Trapez Records. La prossima invece è di Molono Bass, si chiama Under the Sun su Hacker. Thank you. Questo è uno di quei bei dischi, una di quelle belle tracce estive e solari che sicuramente ascolteremo parecchio in questa rotazione estiva di Altro Verso. Vi ricordo, era Molono Bass con Under the Sun su Hacker Records. Vi ricordo adesso e vi voglio parlare del nostro sito internet www.altroverso.net, sito da cui riascoltare questa trasmissione in podcast oppure ascoltare online la nostra web radio 24 ore su 24 e naturalmente leggere la playlist con i titoli delle tracce, i nomi degli artisti ben scritti. Insomma, basta andare sul sito www.altroverso.net e poi magari iscrivervi anche alla nostra newsletter per così rimanere sempre aggiornati riguardo alla musica elettronica, riguardo al mondo di Altro Verso. Questa traccia è entrata con un po' di difficoltà, qualche secondo di silenzio, ma comunque l'importante è che sia entrata, perché quando entra, insomma, si fa sentire veramente con questo bel ritmo, questa cassa bella profonda. Si chiama Soul to Rest, questa è la Combinat 100 Remix su Voltage Music. Sono Daniel Mitch at Madeline. Ascolto di Altroverso, sempre musica elettronica per tutto il sabato notte qui su Onda Rossa. Questa era Soul to Rest nella versione remixata da Combinat 100. Sono Daniel Beach at Madeline per la Voltage Music. Vi ricordo naturalmente ancora una volta che andremo avanti fino alle 6 della mattina, ancora altri minuti, altri 20 minuti circa con le selezioni novità, poi dalle ore 24 fino alle 5 della mattina invece la rotazione in automatico con le tracce migliori di questi ultimi, di queste ultime settimane che naturalmente trasmettiamo sulla nostra web radio. Poi dalle 5 alle 6 invece spazio alla musica chill out, per la zona chill out, appunto la zona per rilassarsi, chiudere in bellezza questo sabato notte. Siamo entrati adesso nella versione, nella traccia del disco di Remerk, si chiama Just a Bard's Tale per la Trappist Limited. sempre grande musica, sempre grande qualità, sempre con Altro Verso, con DJ Misk, Mischietta. Abbiamo ascoltato adesso Remerke con Just a Bard's Tale su Trapez Limited Records. La prossima traccia, The Model featuring My Favorite Robot con Still in My Heart, la versione remix di Brett Johnson. La label è la Crosstown Records. Sentite un po' Brett Johnson, che versione possente ha ricavato dalla traccia di The Model e My Favorite Robot, una traccia che era un po' più, diciamo, in versione synth pop. Lui invece qui veramente ha tirato fuori dal suo cilindro qualche cosa di stratosferico. Eh sì, mi piace veramente parecchio questa traccia, che esce su etichetta Crosstown Records e si intitola Still in My Heart, che velocemente sfumiamo per passare ad ascoltare Jeff Bennett con Edges su Third Wave Music. Thank you. Questa traccia è di Jeff Bennett, si chiama Edges, in versione molto deep minimal per la Third Wave Music, penultima new release di questa prima ora di Altroverso. L'ultima è la prossima ed è firmata Carsten Rausch, si chiama Cargo per la Regular. con cargo di Carsten Rausch su Regular Records. Andiamo a chiudere questa prima ora di diretta per Altro Verso. Stiamo così per concludere questa prima ora di selezione novità. Tra pochissimo partirà la selezione automatico per tutta la notte, che vi accompagnerà così fino alle 6 di domenica mattina. Ve lo farà facendovi ascoltare le migliori tracce underground di Altro Verso dalla mezzanotte fino alle 5 di mattina, e poi dalle 5 alle 6 invece la zona chill out, dove ascolterete un'ora di suoni ambientali, un'ora di suoni proprio chill out per rilassarsi. Insomma, finisce la notte, c'è bisogno di andare a dormire. Qual è il modo migliore se non ascoltando la zona chill out di Altro Verso? Dunque, vi ricordo il disco della settimana è di Maurizio Vitiello con Music On su Metro Line Records. L'ascolteremo ogni ora, cadenzato così all'interno di Altro Verso per questo sabato notte. Oggi sabato 11 giugno, Altro Verso numero 669 sta per chiudere qua la sua prima ora di diretta. Vi ricordo che ci trovate su internet nel nostro sito altroverso.net, da cui ascoltare anche lo streaming radio online 24 ore su 24. Ci trovate anche nei vari social network quali Facebook, MySpace e anche Twitter. Recentemente, insomma, siamo anche su Twitter. Basta, insomma, cercare su internet Altro Verso. Dunque, veramente tutto. Vi auguriamo un grande sabato notte e ci risentiamo sabato prossimo, sabato 18 giugno. Metti il tubo al tuo stereo, ascolta Altro Verso.